suoni, questa è la nostra sigla di Gian Jalinek, Silver Circle, ed è veramente argento, è prezioso quello che abbiamo ascoltato sabato al Torrione. Dopo il GR di Radio Popolare, in attesa dei magazine, la rubrica del lunedì, questa rubrica che invece porta un'attenzione ad altri suoni. Eh sì, perché non solo jazz, un aspetto di avanguardia, di ricerca, quel concerto che tutti gli appassionati vorrebbero ascoltare e sentire, e allo stesso tempo anche chi vuole con curiosità saperne di più su aspetti musicali in continua evoluzione. Il protagonista è Alexander Hawkins, un protagonista che ha già visto ampliare con diverse collaborazioni dalla scuola con Anthony Braxton e con altre realtà musicali assolutamente stimolanti per un ascolto sempre in evoluzione, una produzione in costante crescita. Il disco uscito a inizio 2023 con la formazione che si è presentata al Torrione è qui Carnival Celestial, è in effetti un carnevale, è quello che abbiamo sentito, se vogliamo, con chiare linee che allo stesso tempo danno una continuità tra la musica strutturata e quella che è un'improvvisazione più radicale. Questo è il continuo dialogo fra tre protagonisti completamente indipendenti, uniti dalla musica di cui è autore Alexander Hawkins al pianoforte, e appunto, come vi ho detto, un percorso che accompagna l'ascolto in diverse micro e macro sensazioni. Ho avuto la possibilità anche di scambiare due chiacchiere nel caffè dopo cena in attesa del concerto con Alexander Hawkins. A breve questi due minuti li ascolteremo assieme. Intanto ascoltiamo questo brano che è tratto da Carnival Celestial insieme ad Alexander Hawkins, e il terzetto che viene completato da Neil Charles al contrabbasso e Stephen Davis alla batteria. A tra poco. Alexander Hawkins and the trio for the Torrione, the jazz club in Ferrara. Good evening, Alexander. Good evening, it's great to be here. Pleasure. And what kind of piano trio we listen? Well, and the first thing I'd say is I wouldn't want to think of it as a piano trio. It's a trio with three equal people, and the only reason my name is on it is because I wrote the music. So I suppose the first thing that I strive for in the music is complete equality. You know, the traditional dynamic of bass and drums accompanying piano is an interesting one, but it's only one option amongst many. So I think that's the first thing that we, you know, I think we try to model on stage perfect state of being in the world more generally, of equality. So that would be the main thing I would say to listen for. Yes, it's a nice place. Oh, it's a beautiful room. It's a beautiful room. And it's actually, I've played in Ferrara before, but this is the first time I've been to Torrione, and it's beautiful, absolutely. Yes. I mean, it's a famous club. All the musicians talk about it, but I'm very happy to be here for the first time. Questo è un brano del concerto. Dopo aver ascoltato qualche nota dal disco Carnival Celestial, questo è un tratto del concerto. Beh, nel breve dialogo assolutamente dà rilevanza all'indipendenza di ogni musicista nell'interpretazione della musica di Alexander Hawkins, che è filo conduttore per portare una complessità di ascolto e anche di produzione nel trovare tra la radicalità fluidità della scrittura e allo stesso tempo anche tra improvvisazione e ben scritto, quello che invece è una continua ricerca di questo diventa allo stesso modo in alcuni aspetti di concessione al pubblico con alcune citazioni e allo stesso modo, come ho detto, un concerto che diventa e si trasforma per gran parte di esecuzione in una produzione estremamente colta, importante. Ecco, lui è tra i musicisti più blasonati per quanto riguarda le collaborazioni, ora anche da solista. Come ho detto più volte, un concerto che ha lasciato anche i più appassionati stupiti, coinvolti, e allo stesso modo anche chi si avvicina con curiosità a queste note ha avuto motivo di attenzione, pur essendo un concerto non immediato. Ovviamente il disco risulta tra virgolette più pulito, non solo per la qualità dell'ascolto ma anche proprio per la proposta. Ricordo Neil Charles al contrabbasso, con l'uso anche dell'arco in maniera classica ma al contempo con una contemporaneità forbita. Stephen Davis alla batteria, una bellissima sorpresa, è uno tra i batteristi più dotati che mi è capitato di vedere, non avevo mai sentito dal vivo e allo stesso tempo mi ha coinvolto tantissimo anche nella capacità di interplay, con un pianismo che non vede il virtuosismo nell'aspetto melodico ma appunto lo vede nell'aspetto ritmico. In tutto ciò e nell'ascolto ha portato, oltre che la curiosità, anche la voglia di saperne di più, di essere ulteriormente coinvolto. Addirittura vicino a me una bambina di 10 anni che ha ascoltato il concerto restandone a tratti così un po' stordita, e a volte però durante gli applausi per una composizione molto affascinante allo stesso tempo coinvolta, ha affermato come critica, che è una critica immediata ma assolutamente condivisibile, un concerto molto bello, a tratti difficile e pesante. Ma questo vuol dire missione compiuta, vuol dire che questo aspetto difficoltoso, come se fosse nell'accezione positiva, se vogliamo, un virus, è riuscito a inserire quella curiosità e quella particolarità appunto di cercare, alzando l'asticella, di saperne di più. Ispirazioni per quanto riguarda Alexander Hawkins? Is a modern jazz, it's a contemporary music, but the inspiration in the past. Yeah, I mean, I believe that to know where you're going, you need to know where you've been, where you've come from. But then also, I think it is contemporary jazz, but it's also important to realize that, you know, the great masters of the jazz tradition, if you think of, say, Duke Ellington, he was listening to all sorts of music. He wasn't only listening to jazz. So jazz is an influence, but classical music is an influence. Many of us in the group have experience playing with African artists together or doing other types of contemporary music together. So it's got influences from everywhere, but I would say that is actually in the nature of the jazz tradition, is influences from everywhere. Okay, nice to meet you. Thank you very much. No problem. Ciao. A dopo. Ciao. A dopo. chi non è avvezzo all'ascolto ha portato la riflessione, beh, è difficile, questo è diciamo, sì, se vogliamo un commento immediato, ma con interesse allo stesso tempo può insinuare, anzi decisamente questa musica insinua la curiosità nella sua complessità. Money Jungle è il disco che mi viene in mente ascoltando motivi di ispirazione, e infatti nella breve conversazione in cui ha detto Duke Ellington, ad esempio, potrebbe essere in questo aspetto percussivo che è nel piano, e anche musicisti della tradizione africana. Del resto oramai si ragiona in jazz, poi per quanto riguarda le ispirazioni possono arrivare anche dalla natura, dalla quotidianità, da ovunque, è il ragionare e il costruire in jazz. Poi, se vogliamo, giustamente ha citato un grande come Duke Ellington, e a me è venuto subito in mente il capolavoro assoluto che è Money Jungle con Max Roach e Charlie Mingus. Averne di concerti così. Il contesto del Torrione con Alexander Hawkins, prima volta al Torrione, anche a lui ho chiesto, come tutti gli esordienti al Torrione, le emozioni, anche per avere la conferma, ma non tanto perché abbia bisogno della conferma, è per motivi di comunicazione. Usi sempre superlativi, sei poco affidabile. No, è proprio perché uso dei superlativi che sono affidabile, altrimenti non li userei, almeno nel mio modo di pensare. Ma sono poi superlativi, che è soggettivo, è soggettivo per forza, so chi sta parlando, cioè. Posizione, il lavoro uscito nel 2023, Carnival Celestial, del trio Alexander Hawkins, e quindi subito l'ho portato nella mia collezione di live, nel quale ho assistito nella stagione che va al termine per quanto riguarda una sorta di main concert con questi tre nomi. Dopodiché ovviamente si continuerà a seguire il prestigioso Jazz Club Estense, dove anche Alexander Hawkins, questo veramente, ma anche tra noi musicisti quando ne parliamo il Torrione è tutti i tempi. E arriviamo allora alla conclusione di altri suoni, in questo caso sì, recensione di un concerto di una sede che porta jazz e musica di grande qualità, in questo caso altri suoni perché avanguardia e di ricerca all'interno delle sonorità proposte. Grazie quindi ancora una volta al Torrione, alla programmazione del Jazz Club di Ferrara. A breve la pubblicità, dopodiché si ritorna con la rassegna stampa i magazine del lunedì, oggi 18 dicembre. A tra poco, buon ascolto.